X24, la storia. E mezzogiorno. Il sole è alto nel cielo. La folla si sta radunando intorno ad un palo dove il crocifisso su un uomo. Alcuni militari piantonano la zona. Gerusalemme anno zero. Il luogo dove si è verificato il più noto caso di cronaca degli ultimi 2000 anni. Un uomo chiamato Gesù Nazareno è stato crocifisso sul Golgota. Ma che cosa si sa esattamente di questo episodio? Cosa è esattamente successo quel giorno in Galilea? Chi sono i protagonisti di questa incredibile vicenda che ha cambiato la storia dell'uomo? Oggi a Mix24 ripercorriamo i luoghi dove sono ambientati i Vangeli per descrivere la figura e la personalità degli uomini che hanno contribuito alla morte di Cristo. Un'indagine storica per analizzare il ruolo svolto da ciascuno di loro confrontando i testi della fede e i documenti della storia. Sulla sfondo una domanda: Gesù di Nazareth è esistito davvero? Quali sono i riscontri storici dei Vangeli? Il primo di questi protagonisti è Giuda Iscariota, detto il traditore. Di Giuda si sottolinea soprattutto il tradimento. Il passo evangelico dice: allora Giuda il traditore si pentì e riportò le 30 monete ai sommi sacerdoti dicendo: ho peccato perché ho tradito sangue innocente. Ma quelli dissero: che ci riguarda, veditela tu. Ed egli, gettate le monete d'argento nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. Ascoltiamo lo scrittore Vittorio Messori, il biblista David Flusser e il cardinale Albert Van Hoye. Se i Vangeli, come molti dicono, sono stati ampiamente manipolati, se non sono altro che il risultato di un lungo lavoro di mitizzazione di una storia magari vera, ma che è stata però ampliata dalla fede, da chissà quali oscuri manipolatori, beh, se i Vangeli fossero questi, non ci sarebbe alcun Giuda. Giuda è una figura inquietante ed è una figura estremamente scomoda per il credente. Giuda Iscariota è un personaggio che è certamente esistito. Era uno dei 12 apostoli e ricevette del denaro, le famose 30 monete d'argento, dal sommo sacerdote per rivelare dove si sarebbe trovato Gesù la notte prima di Pasqua e consentire così che venisse condotto alla casa del sommo sacerdote, dove poi nel Sinedrio si sarebbe deciso cosa fare di lui. Dal punto di vista della Chiesa primitiva è una situazione scandalosa. Come immaginare che un apostolo scelto da Gesù fosse diventato un traditore? Questo sembra andare contro la perspicacia di Gesù stesso. Lucetta Scarafia, giornalista, storica, professoressa alla Sapienza. Quanto è vera la figura di Giuda Iscariota? Ma su Giuda ci sono, evidentemente, sono tutte leggende, quelle dei 30 denari, di che si è impiccato, tutto quello. Che ci sia stato uno dei discepoli che l'ha tradito, diciamo, sembra sia proprio vero storicamente, e devo dire corrisponde anche poi alla nostra esperienza normale di vita, no? C'è sempre qualcuno poi che tradisce, che per denaro quindi, tradisce gli quindi altri. Quindi la personalità di Giuda sembra assolutamente vera, insomma. Sì, sembra assolutamente vera, che si è sentito evidentemente trascurato, accumulato rancore, succede sempre nei gruppi. Nella descrizione di Giuda si inizia a intravedere una complessità che fa dell'apostolo di Gesù non solo una figura negativa, ma anche un uomo contrastato, dubbioso, capace di gesti eclatanti. È lo stesso racconto del Vangelo che sottolinea la complessità umana di Giuda e che ci fornisce un primo indizio per la nostra ricerca sulle fonti storiche. Per l'evangelista Marco, Giuda, il traditore, si trasforma in un uomo sovrastato dal macigno del pentimento. Ed egli, gettate le monete d'argento nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. Dopo aver gettato con rabbia le 30 monete, Giuda esce dal tempio e abbandona i sommi sacerdoti. È sconvolto, non sa cosa fare. La sua mente probabilmente spazia in mille direzioni e gli ricorda il senso di un tradimento appena compiuto. Una volta all'aria aperta, si dirige verso la periferia della città. Le sue gambe lo portano fuori, verso il campo di sangue. Ed è qui che Giuda Iscariota decide di porre fine alla sua vita. Ma come si è suicidato l'apostolo traditore di Gesù Cristo? Ancora Vittorio Messori. L'impiccagione non avveniva attraverso una corda con un nodo scorsoio passata attorno al collo e con l'appensione a qualche sostegno in alto. Ci si impiccava o si impiccava nell'antichità appendendo il condannato o appendendosi con le proprie mani a una furca. Il nostro forca deriva dal latino furca, che indica la biforcazione di due rami d'albero. Sulla base di questa corrispondenza tra il racconto evangelico e le fonti storiche, Giuda potrebbe essere davvero esistito e suicidatosi con una forca costituita da due rami d'albero rivolti verso il basso. Lucetta Scaraffia, esiste una prova numero uno per accertarsi della reale esistenza della figura di Gesù? Ma intanto la figura di Gesù è provata storicamente da fonti non cristiane, cioè Flavio Giuseppe, Tacito e Svetonio. Parlano di questo profeta ebraico, naturalmente Flavio Giuseppe era ebreo anche lui, e nella guerra giudaica racconta l'episodio della sua condanna. Dal punto di vista storico non c'è dubbio che sia esistito e che la situazione, proprio la sua condanna, abbia creato dei problemi nei rapporti con i romani, fra i romani e i giudei. Questo è sicuro. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24 con la nostra inchiesta sui luoghi e i personaggi della vita di Gesù. Pilato, il governatore della Galilea, è esistito veramente? Tu l'hai detto, io sono roi e io sono venuto in questo mondo per rendere témoignage la verità. Qu'est-ce que la verità? Ma cos'è la verità? Chiede a Gesù il Pilato cinematografico del film Golgota realizzato nel 1935. E allora di nuovo, qual è la verità sull'esistenza di Pilato? Lucetta Scaraffia, sulla figura di Pilato invece, cosa c'è di certo? Beh, c'è di certo che Pilato è esistito, che è stato procuratore in Giudea, che è stato anche a lungo procuratore in Giudea, che era di un ceto equestre, che aveva sposato una donna invece che apparteneva alla gens Claudia, quindi più importante di lui, e che aveva fatto carriera militare, lì era stato probabilmente notato e era stato dall'imperatore ed era stato poi mandato a fare procuratore in Giudea, che è una carica importante, ecco, soprattutto perché la Giudea era un posto molto difficile, perché gli ebrei di tutti i popoli che stavano nell'impero romano erano quello, diciamo, più ribelle, che sfuggiva di più al controllo dell'impero, proprio perché non voleva aderire alla religione complessiva dell'impero, che era un insieme di tutte le religioni unificate dal culto dell'imperatore, mentre invece gli ebrei erano pronti a sacrificare la vita per adorare l'unico Dio. Questo lo raccontano fonti storiche? Sì, lo raccontano tante fonti storiche, probabilmente, per esempio Tacito, che ne parla molto chiaramente, evidentemente deve aver consultato negli archivi proprio i rapporti che Pilato ha mandato dalla Giudea. Tacito, sì. Siamo intorno al primo secolo, sì, dopo Cristo. Quindi, però aveva accesso agli archivi Tacito. E quindi deve aver letto, proprio la sensazione che Tacito abbia letto le fonti, le lettere, che i rapporti che Pilato mandava a Roma. Il 1967 è l'anno di un importante ritrovamento archeologico. In un edificio romano di Cesarea Marittima, dei lavori di restauro hanno sollevato una targa con un'iscrizione latina che riportava a caratteri romani una prima iscrizione in alto, Tiberium, e una seconda, Pilatus. Dunque Pilato è veramente esistito ed è stato governatore sotto il regno dell'imperatore Tiberio, come dice l'iscrizione. Ma è stato davvero lui a volere la morte di Cristo o non sono stati piuttosto i sommi sacerdoti Anna e Caifa? E Gesù è stato regolarmente processato? perché questo processo è avvenuto di notte e qual è l'accusa che è stata formulata. Alle nostre domande rispondono il giurista Hein Cohen e il biblista David Flusser. Fratelli! Caifa, perché l'hanno legato come un malfattore? Non è ammissibile! Rabbi, non è nostra intenzione trattarti come un criminale. Se ti abbiamo portato qui è perché tu risponda ad alcune domande sui tuoi insegnamenti. Rabbi, sembra che tu abbia affermato di essere il figlio di Dio. Ti chiedo ora, nel nome dell'Eterno, sei tu il Messia, il figlio di Dio? Io lo sono. Il Signore è nostro Dio! Il Signore è uno! L'assemblea del Sinedrio, tenutasi nella notte che precedette il processo dinanzi a Ponzio Pilato, non fu affatto un processo. Nessun tribunale ebraico avrebbe tenuto un processo penale di notte. E nessun tribunale ebraico avrebbe tenuto un processo la notte della vigilia di Pasqua. L'unico ad avere veramente interesse alla morte di Cristo era il sommo sacerdote, poiché nel Tempio Gesù non aveva parlato contro i farisei, non aveva parlato contro i membri del Sinedrio, ma contro il sommo sacerdote, che era un sadduceo. Il Sinedrio voleva salvare il Nazareno dalla morte per mano del governo romano. Gesù era un ebreo, era un buon ebreo, era un rabbi. Io personalmente nutro in proposito un'opinione diversa da quella di molti ebrei. Non sono disposto a considerare Pilato come la persona che aveva il maggior interesse ad eliminare Gesù. Pilato era senz'altro un uomo crudele, a mio parere, però era anche un debole e volle compiere la volontà del sommo sacerdote. Si preoccupava dei buoni rapporti diplomatici tra il Sinedrio e Roma, perché il Sinedrio, e quindi il sommo sacerdote, rappresentava appunto il popolo ebraico davanti ai romani. È ritornata così l'antica polemica su chi ha ucciso Gesù Nazareno. Sono stati i romani nella persona di Pilato o gli ebrei nelle vesti di due sommi sacerdoti? Lucetta Scaraffia, alla famosa domanda se siano stati i sommi sacerdoti o Pilato a decidere della morte di Gesù, si può rispondere? Quello è veramente difficile rispondere, perché ogni cronaca di questo evento tira l'acqua al suo mulino. Cioè, i romani dicono che erano gli ebrei e gli ebrei dicono che erano i romani. I Vangeli tendono molto a dire che sono gli ebrei, perché i Vangelisti e i primi cristiani vivevano in una situazione di grande conflitto con gli ebrei e quindi tendevano a dare la colpa loro. Pilato se ne lava le mani, appunto. Cioè, Pilato pecca di omissione, ma non di attiva persecuzione, che invece è quella dei capi dei sacerdoti. Bisogna dire però che Gesù, dava fastidio ai capi dei sacerdoti e non a Pilato. Storicamente dal punto di vista politico, sì, storicamente dal punto di vista politico dava fastidio a loro e non a Pilato. Perché? Quindi, perché stava predicando una nuova religione, di fatto, comunque stava predicando delle idee che erano molto critiche del loro operato. Forse non sarà mai possibile rispondere a questa domanda e forse l'eventuale risposta non aggiungerebbe nulla alla nostra indagine che ci sta invece portando sul Golgota. Ma prima di arrivare sul luogo della crocifissione, dobbiamo ancora analizzare alcuni episodi salienti del Vangelo, come quello del canto del gallo, considerato da alcuni studiosi una prova certa della non attendibilità del Vangelo. Secondo questa teoria, infatti, non sarebbero potuti esistere galli in Gerusalemme perché impuri. L'episodio dunque sarebbe stato inventato, ma sentiamo cosa dice esattamente l'Apostolo Marco nel suo Vangelo. Gesù gli disse: in verità ti dico, proprio tu oggi, in questa stessa notte, prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai tre volte. Ma egli, con grande insistenza, diceva: se anche dovessi morire con te, non ti rinnegherò. Lo stesso dicevano anche tutti gli altri. Non ho verificato il fondamento di questo divieto, che mi pare a me strano, perché il gallo non è considerato un animale impuro nella Bibbia. È tanto comune avere qualche animale così domestico o per il cibo nelle case. E quindi, d'altra parte, il gallo poteva anche essere un po' più lontano, non precisamente in città. Era la voce del cardinale Albert Van Hooy. Infatti è stato dimostrato da alcuni studiosi che i galli non potevano vivere all'interno delle mura della città santa, ma sicuramente vivevano all'esterno della stessa città. E il loro canto si poteva benissimo ascoltare anche dalle zone adiacenti al tempio. Lucetta Scarafia, una delle prove contro la veridicità dei Vangeli è che i galli, in quanto animali impuri, non potevano esserci a Gerusalemme, non potevano cantare, quindi. Lei che ne pensa? Guardi, mi sembra che queste sono cose. Intanto potevano esserci non nei luoghi sacri, nei recinti sacri. Io penso che i territori sacri venissero sicuramente preservati dai galli, ma che in giro ci fossero i galli, anche perché servivano le galline, le uova, e quindi i galli avevano, come tutti sappiamo, una funzione biologica irrinunciabile. Ma torniamo alla seconda tappa di questo itinerario verso il Golgota, la flagellazione avvenuta, secondo le fonti, nella notte di giovedì e nei locali della Fortezza Antonia a Gerusalemme, destinati alle centurie romane. I cittadini erano puniti con le verghe dei fasci, invece le persone libere con dei nervi di bue, e infine gli schiavi o le persone dei territori occupati con i flagelli, i quali erano costituiti da un manico con delle corregge, all'estremità dei quali c'erano dei piccoli pesi di metallo, ovvero delle ossicine di animali. Si trattava di una pratica estremamente violenta. Cicerone ci ricorda che Verre ha ucciso molte persone con questo sistema. Ancora Filone ci ricorda il procuratore Floro, che uccide un certo numero di ebrei ad Alessandria con dei flagelli. Infine Flavio Giuseppe ricorda di aver fatto punire un proprio avversario politico con questo mezzo, e la violenza dei colpi di flagello fu tale che vennero esposti i visceri. Ancora qualche tempo più tardi, siamo nell'anno 62 d.C., venne punito un rabbino ribelle, certo Bar Anan, e i colpi di flagello furono così violenti che vennero esposte le ossa. Questa dunque è la ricostruzione della flagellazione di Cristo di Pierluigi Baima Bollone, ordinario di medicina legale. Le coincidenze tra il racconto del Vangelo e la tecnica di flagellazione in uso presso le truppe romane del tempo sono dunque, per molti aspetti, sconcertanti e fanno oscillare l'ago della bilancia verso una coerenza storica della narrazione evangelica. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. In terra di Gerusalemme, sul Golgota, il cui nome in ebraico ha il sinistro significato di cranio, quel venerdì mattina dell'anno 30 vennero crocifissi i sobillatori del popolo. Quegli uomini che per la loro condotta, per le loro idee, per la professione di fede si erano distinti come rivoluzionari rispetto all'ordine costituito, sia religioso che politico. Insieme a Gesù di Nazareth, quel giorno, sul luogo del martirio, c'era un comune ladro e ci sarebbe dovuto essere anche Barabba. Ma chi era Barabba, veramente? Rispondono il diplomatico Nathan Ben-Orin e il biblista David Flusser. Barabba, secondo tutte le fonti, era un leader rivoluzionario e non un ladro, non un ladrone. E la... quello che i Vangeli riportano come reazione della massa alla domanda di Pilato, la scelta di chi liberare. La scelta cadeva su Barabba, certamente perché era negli occhi della gente presente un patriota, un leader dell'insurrezione. E la simpatia andava verso di lui. Credo che Barabba sia esistito realmente e che, come dicono i Vangeli, venne liberato. C'erano tre terroristi. Barabba quindi venne liberato e Gesù dovette essere crocifisso al suo posto. È quello che volevano i sommi sacerdoti. Questo era il loro interesse. E fu per la volontà dei sacerdoti che Pilato, dapprima esitante, decise di far eseguire la crocifissione. Lucetta Scarafia, su Barabba invece, cosa possiamo dire di certo? Beh, non sappiamo quale Barabba era, perché c'erano stati in quel periodo vari Barabba, molto antiromani, tutti molto, diciamo, non erano proprio banditi, erano militanti antiromani, partigiani antiromani che in modo violento però interferivano in modo violento nei confronti dell'esercito romano che occupava la Giudea, e quindi era chiaro che erano, cioè c'erano stati più di uno, non si sa qual è quello esattamente che venisse scambiato con Gesù, perché era un nome anche questo molto diffuso, come Gesù del resto era un nome molto diffuso. Quindi sì, di sicuro è esistito, ma non sappiamo se è proprio quello. Qual è quello dei tre Barabba, diciamo, ribelli, dei tre ribelli Barabba, qual è quello che. Perché è stato, ne sono accertati tre. Sì, tre nello stesso periodo, poi non sappiamo gli anni esatti, okay. Naturalmente. Insieme con lui furono crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Anche i ladroni crocifissi con lui lo oltraggiavano allo stesso modo. Con lui crocifissero anche due ladroni, uno alla sua destra e uno alla sinistra, e anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Venivano condotti insieme con lui anche due malfattori per essere giustiziati. Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e i due malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Ci hanno sconfitto. No, fratelli, i vincitori siamo noi, la vittoria è nostra. Moriremo così in croce. Questi boia dovranno morire. Lo avete sentito, gli uomini crocifissi, secondo la tradizione si sarebbero parlati durante la loro agonia. Così almeno ci raccontano i Vangeli, e questo dialogo sulla croce, che è stato considerato per moltissimo tempo una delle prove della inattendibilità storica della narrazione dei quattro Vangeli. Come potevano parlare i crocifissi di Gerusalemme se la posizione dei loro arti incideva direttamente sul diaframma delle corde vocali? È dunque possibile per la scienza accettare l'ipotesi di questo dialogo sulla croce? In altre parole, Gesù crocifisso poteva parlare? Sentiamo ancora il medico legale Pierluigi Baima Bollone. Si dice che i ladroni siano stati legati alla croce e non inchiodati. Questo rende più facile ammettere la possibilità di un dialogo addirittura. Per quello che riguarda Gesù, posto che non avesse ciò che si chiama un sedile, cioè un supporto sul quale poter gravare e riposarsi, certamente era inchiodato ai piedi e certamente su questo appoggio, sia pur doloroso, poteva sollevarsi. Non esiste pertanto ragione per escludere che fin quando la situazione fisiopatologica che l'ha condotto a morte non riuscisse a rivolgere un discorso coordinato, peraltro breve, a chi era vicino a lui. dunque Cristo poteva parlare e con lui i ladroni crocifissi quello stesso giorno. Questo ci racconta la scienza medica, ma la tradizione ricorda tutta la drammaticità e la crudeltà della crocifissione. Al di sopra del suo capo posero la motivazione scritta della sua condanna. Questi è Gesù, il re dei giudei. Nella Cappella delle Reliquie, nella chiesa di Santa Croce in Gerusalemme, sono custoditi il legno e il titolo della croce, dove si legge la parola Nazarenus, scritta in ebraico, latino e greco, letta da destra a sinistra. Il legno sarebbe stato trovato da Sant'Elena nel suo viaggio a Gerusalemme. Ci sono inoltre le spine della croce e il chiodo che riguardano i momenti della passione di Gesù. Questo frammento di croce, conservato nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme a Roma, viene considerato un'altra testimonianza della attendibilità storica dei Vangeli. Ma ce n'è ancora una. A Pompei, negli scavi archeologici, è stata ritrovata un'iscrizione considerata dagli esperti molto interessante. Si tratta del quadrato magico, a prima vista incomprensibile. Un quadrato composto da lettere romane che si possono leggere da destra a sinistra, da sinistra a destra e dall'alto in basso. Ma in realtà è una copertura escogitata dagli schiavi cristiani per proteggersi dai padroni romani. La giusta composizione di queste lettere porta ad una croce cristiana. Il fatto che una croce cristiana sia stata ritrovata a Pompei testimonia l'esistenza di una professione di fede cristiana prima del 68 d.C. È un'altra testimonianza del fatto che quel giorno di Pasqua il Nazareno fu veramente crocifisso sul Golgota. E il nostro viaggio è arrivato proprio alla fase finale, alla morte di Cristo. Ma qual è stata la causa della morte di Gesù sulla croce? Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò con voce forte: Eloi, Eloi, lema sabachthani? Che significa, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano, ecco, chiama Elia. Uno corse a inzuppare di aceto una spugna e, postala su una canna, gli dava da bere dicendo, aspettate, vediamo se viene Elia a toglierlo dalla croce. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. E subito uno di loro corse a prendere una spugna e, imbevutala di aceto, la fissò su una canna e così gli dava da bere. Gli altri dicevano, lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo. E Gesù, emesso un alto grido, spirò. Lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo. Ah! Si è pensato che una posizione come quella del crocifisso a poco rendesse impossibile la respirazione. Sono anche state fatte delle ricerche sperimentali. Si è così visto che la trazione agli arti superiori blocca a poco il torace rendendolo inespansibile, mentre il peso dei visceri tira in basso il diaframma. Si realizza così una forma di morte asfittica che prende il nome di asfissia traumatica. Esistono delle altre ragioni ben precise per ritenere che nella posizione del crocifisso a poco il sangue si accumuli nella parte inferiore del corpo. Si tratterebbe di una forma detta di collasso ortostatico che, assommata al danno dell'asfissia per crocifissione, provocherebbe una morte in un certo numero di ore. Lucetta Scaraffia, ma lei, a parte la fede, visto che lei è credente, c'è una prova per lei che la convince di più rispetto all'esistenza di Gesù? Beh, l'esistenza del cristianesimo. Cioè, è una prova storica talmente lampante, forte. Cioè, comunque c'è stato un uomo che ha predicato delle cose così rivoluzionarie che hanno cambiato il mondo. Cioè, l'uguaglianza di tutti gli uomini davanti a Dio è una rivoluzione totale, assoluta, che ha predicato solo Gesù. Che sia un uomo figlio di Dio non c'entra. Cioè, lui ha predicato questo. E questo è il messaggio che è passato e che è quello poi che è all'origine, per esempio, anche dei diritti dell'uomo. Cioè, Gesù ha cambiato totalmente la cultura, l'umanità, e allora evidentemente c'è stato un uomo capace di dire delle cose così rivoluzionarie, così forti, ma anche così condivisibili, con passione, da persone che in migliaia hanno accettato di morire per queste idee e tuttora accettano di morire per queste idee, che è evidente che questa è una realtà storica che abbiamo visto proprio incarnata nel cristianesimo. Gesù dunque è morto, e qui la nostra storia potrebbe finire se non ci fosse un altro episodio relativo ai Vangeli che ci porta sempre in Palestina, a Qumran. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24 e al racconto della vita di Gesù. Nell'ambiente lunare di Qumran in Palestina si ambienta una delle storie più misteriose degli ultimi 2000 anni, una storia che ha inizio nel 1945 e che gli archeologi hanno scoperto soltanto 2 anni dopo, quando, setacciando i negozi degli antiquari di Gerusalemme, hanno identificato dei rotoli antichissimi, e li hanno attribuiti alla biblioteca del monastero degli Esseni. Questo materiale probabilmente fu accumulato e nascosto tra alcune grotte prima dell'assedio di Gerusalemme intorno al 68 d.C. Nel 1955 fu setacciata la grotta numero 7, dove vennero trovati grandi rotoli di pergamena scritti in ebraico e in aramaico, ma solo 18 piccoli frammenti di papiro. Il più grande di questi frammenti fu indicato con la sigla 7Q5. Si tratta di un frammento di color castano chiaro, quasi grigio, scritto su un solo verso con inchiostro nero di altezza massima 3,9 cm e la larghezza di 2,7, scritto su 5 righe in greco. Nella prima riga è rimasta una sola lettera, 4 lettere sulla seconda riga, 6 sulla terza e 4 lettere sulla quarta. 4 lettere si trovano anche sulla quinta riga. Una lettera è dubbia, il totale è di 20 lettere, 11 delle quali sono leggibili e 9 incerte. E sono proprio queste 20 lettere a catturare l'attenzione di padre O'Callaghan, che dopo anni di ricerca sulla rivista biblica nel 72 rende nota la sua straordinaria scoperta. A raccontarcela il biblista Massimo Pazzini. Per il padre O'Callaghan, il gruppo di lettere più invitante è quello che si trova nella quarta riga, NNES. Secondo lui, questo gruppo di 4 lettere fa parte della parola Gennesaret, uno dei nomi del lago di Tiberiade. Il padre è andato a cercare nel Nuovo Testamento e ha visto dove la parola compare con il contesto, e ha stabilito che il contesto migliore che può adattarsi in questa griglia paleografica è il capitolo 6 di Marco, ai versetti 52 e 53. Una scoperta che ha del rivoluzionario. L'intervallo tra la morte di Gesù e la stesura di almeno un primo Vangelo nel testo definitivo che noi ancora conosciamo e usiamo è stata assai più breve di quanto non si pensasse in precedenza. E questo dimostrerebbe almeno 2 cose. Che la redazione definitiva dei Vangeli non è stata preceduta da un lungo periodo di tradizione orale, e che il racconto della passione di Cristo già circolava nella Palestina di prima della distruzione del Tempio, quando molti testimoni delle parole e dei fatti erano ancora in vita, e quindi avrebbero potuto smentire l'intera narrazione e denunciarla come frutto di fantasia. Dopo le rivelazioni di padre O'Callaghan, il mondo dei biblisti è esploso in un fiume ininterrotto di polemiche fino al 1986, quando lo storico tedesco Carsten Peter Tide pubblica un'opera frutto di molti anni di studio, dal titolo «Il più antico manoscritto dei Vangeli». La conclusione è la seguente. In base alle regole del lavoro paleografico e della critica testuale, è certo che il frammento 7Q5 corrisponde a Marco, versetti 6, 52, 53, Il suo Vangelo dunque sarebbe stato scritto intorno al 50 d.C. Lucetta Scarafia, perché la scoperta dei manoscritti di Qumran è stata così importante? Ma perché intanto ha fatto capire che c'era in quel periodo in Palestina un fermento spirituale molto forte. Alcuni degli aspetti di Gesù che non venivano molto capiti, per esempio il fatto che lui non si sposava, mentre i grandi sacerdoti si sposavano, tutti i sacerdoti si sposavano, questa figura molto originale di un celibe nella società ebraica, per cui molti non credevano neanche che lui fosse celibe, e invece trova un riscontro negli Esseni, che quelli che vivevano a Qumran, che invece vivevano nella castità. Quindi c'è anche l'ipotesi che quando Gesù va nel deserto sia stato in realtà a Qumran. Ecco, ci sono dei legami fra il cristianesimo e alcune delle qualcosa che si diceva nella setta di Qumran, e poi soprattutto perché nei testi trovati a Qumran c'è questo frammento del Vangelo di Marco che fa retrodatare molto i Vangeli, e questo li rende molto più vicini a Gesù. E nel Vangelo, come tutti sappiamo, si narra di un caso di cronaca di 2000 anni fa, la storia di un uomo chiamato Gesù Nazareno. Dio non è evidente, Dio non appare da dietro le nuvole. Si direbbe che la misteriosa strategia di Dio è quella del nascondimento, quasi del giocare a nascondino con gli uomini. Diceva Pascal che c'è abbastanza luce per chi vuol vedere e abbastanza tenebra per chi non vuol vedere. È un Dio che gioca a rimpiattino, che gioca quasi a nascondersi, per salvaguardare la nostra libertà. Un giudeo del primo secolo, profondamente religioso, che ha iniziato una missione nuova, annunciare che il regno di Dio era prossimo e che quindi conveniva convertirsi. Gesù certamente non era un terrorista. Quello che accadde a Gesù è analogo alle false accuse che vennero mosse a Socrate. La figura storica di Gesù ci è rivelata praticamente per i Vangeli e un po' per altri scritti del Nuovo Testamento. Abbiamo pochissime testimonianze fuori di questi scritti cristiani. Non era un esseno. Anzi, addirittura criticò gli Esseni. In questa prospettiva del nascondimento di Dio, di questo enigmatico gioco a rimpiattino che Dio fa con noi, sono sempre più convinto che Dio si nasconda nei particolari. Lucetta Scarafia, della figura di Gesù di Nazareth storico, cosa l'affascina di più? A questo rovesciamento. Infatti ha rovesciato completamente tutte le categorie, ha detto che era meglio essere deboli che forti, che era meglio essere miti appunto che violenti, che potenti, che era meglio soffrire che essere felici anche in qualche modo, in previsione del regno dei cieli. Questo rovesciamento è qualcosa che ancora adesso quando si leggono le beatitudini, genera uno stupore enorme, perché è talmente diverso da quello che noi ci auguriamo sempre nella nostra vita, è così audace questo pensiero, che veramente mi sembra qualcosa che può rovesciare tutto, che può cambiare qualsiasi cosa. Rivoluzionario, il pensiero più rivoluzionario che sia mai esistito.